Ieri, mentre tornavo e mi accorgevo che a 35 anni avevo paura e non sapevo come gestirla, mi è venuto in mente un mio caro amico che si chiama Bazooka. Cioè non si chiama Bazooka, però per tutti è semplicemente Bazooka. Non vi sto a spiegare perché si chiama Bazooka, semplicemente questo è il suo soprannome e tutti lo chiamiamo così. Lui fa parte di quella categoria lì che è obbligato a viaggiare per lavoro e ha il terrore di mettere piede su un aereo, e lui ha sviluppato diversi metodi per non avere paura. Pronto? Bazooka, sono il Caccia. Ti disturbo? No, dimmi tu. Sì, lo so che ti disturbo. Dai, dammi solo un minuto. Visto che l'altro giorno, tornando da Newcastle, ho pigliato un 2 o 3 turbulenze che mi sei venuto in mente. Sì. E si parlava della storia del simulatore. Sì. Funziona da un punto di vista terapeutico? Cioè, poi ti passa la paura o...? Assolutamente no, anzi, te ne viene pure di più. Sì, però, ad esempio, quando mi dicevi che ti fai Milano-New York in una notte intera. Sì. Ho capito. E quello ti serve a farti passare la paura? No, difatti, quello non ti serve a farti passare. Diciamo che forse ti dà un po' più di consapevolezza rispetto a quello che può succedere in un aereo, cioè ti rendi conto di quanto sia difficile che un aereo cada o cose del genere, perché ci sono delle leggi fisiche, ma quello dovresti parlare forse con un pilota che te lo spiega meglio, no? Vabbè, però scusami, tra il simulatore di volo, guardare tutti i video su YouTube in cui cadono gli aerei e la vodka sull'aereo, la cosa che funziona meglio? Assolutamente la vodka sull'aereo. Ma tu hai mai fatto invece il corso, quello per farti passare la paura di volare? No, non l'ho mai fatto, ho letto un bel po' di cose, ma ti dico, penso che nel mio caso sia... Cioè, è una follia, per cui dovresti andare alla radice del problema. Dall'analista, Bazzo. Facendo un percorso, analisi. Esatto, esatto. No, vabbè, dai, ti ringrazio, ci vediamo domani in ufficio. Va bene.